Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, ben trovati ad un nuovo appuntamento con Salvadanaio. Salvadanaio che comincia a piangere, almeno questa è la preoccupazione di molti, ma insomma cominciamo con ordine, atteniamoci alla cronaca e vediamo che cosa sta accadendo questa mattina sui mercati. Per i mercati è un'altra giornata nera dopo il nuovo crollo di Wall Street di ieri sera e crollo replicato questa mattina da tutti i mercati asiatici. Anche gli indici europei sono in caduta libera, in miglioramento per la verità rispetto ad un'apertura che aveva visto ribassi fra il 7% e l'8%, ma in ogni caso insomma le percentuali non è che ci confortino poi molto, anche se la situazione è leggermente migliorata. Londra sta perdendo il 4%, stanno andando benino le banche visto il maxi piano che è stato varato dal governo, di cui vi abbiamo raccontato appena qualche minuto fa nel giornale radio. Francoforte -5,70, Parigi -4,87, Milano -5,45 sull'S&P MIB, -5,49 sul MIPTER, che si porta così ai minimi dal 2003. Insomma, ieri il mercato americano ha risentito delle preoccupazioni di nuovo sui grandi gruppi bancari e soprattutto delle parole del presidente della Banca Centrale Americana Bernanke, che ha parlato di un aumento dei rischi di ribasso della crescita americana, senza contare, questa peraltro è una notizia che è circolata questa mattina, che i crediti al consumo di agosto sono calati per la prima volta da 10 anni. Se cominciano a traballare ovviamente i consumi americani, qua davvero la preoccupazione si allarga ulteriormente a macchia d'olio. Sono arrivate ieri le decisioni da parte di molti governi europei, anche se all'Ecofin non c'è stata un'intesa comune, di ampliare le garanzie sui depositi delle famiglie, appunto dei ovviamente paesi che hanno preso queste misure. La soglia minima di garanzia bancaria per i privati in casi di fallimento delle banche sono state aumentate a 50.000 euro in molti paesi, però insomma tutto questo ci dà ancora il segno di come sia alta la tensione e l'attenzione anche su quello che sta accadendo sui mercati. C'è il vertice anche in Italia, ve ne parleremo ampiamente nel corso della giornata, c'è un Consiglio dei Ministri che è stato convocato per questa sera, forse verranno prese delle misure anche nel nostro paese. Insomma, in tutto questo si stanno allargando anche le preoccupazioni delle famiglie italiane. Chi tutela i nostri risparmi, i nostri conti correnti? Almeno su questo punto i paesi dell'Unione Europea sembrano essere d'accordo, visto che, appunto, come vi ho già detto prima, si stanno affrettando ad aumentare la soglia delle garanzie sui depositi. Noi oggi faremo il punto su questo. Faremo un po' di cronaca anche di borsa, ma poi parleremo anche delle famose polizze, delle famose obbligazioni Lehman Brothers, che ovviamente è un tema che abbiamo dovuto trascurare negli ultimi giorni perché la cronaca ci ha imposto di dirottare l'attenzione su altro, ma ci sono molte famiglie anche in attesa di capire che sorte avrà il loro investimento legato a questa banca americana che è fallita qualche settimana fa. Quindi tanta carne al fuoco. I nostri interlocutori di questa mattina: Anna Vizzeri di Altro Consumo, poi avremo Rosario Marcone di Deminor Italia, che è una società di consulenza indipendente della più grande società europea specializzata nel fornire servizi agli investitori. In questa fase sta assistendo proprio gli investitori in qualche maniera mal consigliati, anche che sono incappati appunto in Lehman Brothers. Che cosa sta facendo questo comitato europeo, ve lo spiegheremo tra poco. Prima di tutto però la parola a Mario Spreafico, direttore investimenti di Citi Italia, per commentare questa nuova giornata terribile per i mercati. Spreafico, buongiorno. Buongiorno. Per modo di dire, insomma, ci siamo svegliati in maniera pessima, non è che i segnali ieri fossero stati migliori. La domanda che le faccio, insomma, sulle cause di questo ribasso, abbiamo ormai sprecato tutto il fiato possibile, mi chiedo qual è la lettura che le borse stamattina stanno dando degli avvenimenti che stiamo raccontando. Il timore è che a questo punto siamo in pieno credit crunch e le banche non sono più in grado di erogare alcun tipo di credito all'economia reale, quindi oggi scende tutto anche per questo? Ma diciamo la discesa di oggi, ma un po' insieme anche al mercato di ieri e un po' anche, io credo, nell'ultima settimana, si spiega con una moltitudine di elementi. Sicuramente il credit crunch è quello che ha colpito il mondo delle banche, quindi anche la necessità di interventi governativi ha sicuramente dettato questo tipo di comportamento dei mercati finanziari. Io credo che però quello che sta avvenendo in questi giorni è un comportamento assolutamente, diciamo, io oso dire, di riallocazione di attività finanziarie a livello internazionale. Mi spiego meglio. Purtroppo questa situazione è fuori di dubbio che cambierà gli scenari non solo finanziari ma anche economici dei prossimi anni, e credo che tutto ciò che è stato investito nel corso degli ultimi anni debba essere messo in discussione. Questo non perché ci siano dei rischi superiori al passato, sicuramente questo è un contesto in cui i rischi emergono, ma perché io credo che abbiamo convissuto con anni in cui il risparmio e quindi gli investimenti siano stati allocati in modo assolutamente a volte indisciplinato. La nascita di molti soggetti di investimenti speculativi, la nascita di strumenti finanziari talvolta difficili da valutare, ma parlo per gli investitori professionali più che per gli investitori privati, ha posto in questa situazione, in questa crisi di crunch, tra l'altro un fenomeno questo che è nato da una convivenza per lunghi anni con tassi di interesse molto bassi, dove sembrava che il migliore raffare era quello di investire prendendo a prestito il denaro, cosa a cui noi italiani non siamo abituati, ma negli altri paesi c'è stato un fenomeno molto forte, quindi il miglior business era proprio forse quello di prendere dei debiti più che investire. Allora, questo meccanismo giustamente saltato perché non poteva durare a lungo. Il problema è che le risorse che sono state investite in attività finanziarie talvolta diverse da quelle più semplici, quelle che rappresentano poi e sono le cosiddette attività finanziarie che aiutano l'economia reale a crescere, erano diventate sempre più povere. Io credo che in questo contesto il mercato stia riallocando in modo attivo le risorse, purtroppo i segni si vedono sul mercato perché ci sono vendite indiscriminate, talvolta anche ingiustificate su alcune società che hanno dei fondamentali straordinari, e purtroppo assisteremo ancora a questo tipo di fenomeno inspiegabile probabilmente ancora per qualche giorno, ma credo che si riaprirà la strada, come dicevo prima, un'allocazione più direi morale di quelle che sono le risorse, una parola forte ma è così. Il problema, da quello che ci sembra almeno, è che a questo mercato comunque non sembra bastare niente, non si accontenta di niente. Mi chiedo se il problema grande dell'Europa adesso sia questa mancanza di visione, di intenti anche da parte dei governi. Secondo lei era necessario un intervento? L'Ecofin ha bocciato la costituzione di un fondo simile a quello predisposto dal piano Paulson negli Stati Uniti, ma secondo lei è proprio un problema anche di mancanza di visione comune da parte delle autorità? Ma io questo non credo, credo che sicuramente la gestione di un fondo comune sarebbe stato un messaggio molto forte di unità, soprattutto in unità europea. Non dimentichiamo che però, pur avendo un'economia, chiamiamola monetaria, unita, abbiamo ancora dei governi locali con diverse legislazioni e diverse, diciamo, organizzazioni del sistema finanziario e bancario. Questo spiega anche perché l'Italia in questo momento è uno dei paesi più difesi, forse meno problematici a livello europeo per quanto riguarda il sistema bancario. E quindi le situazioni sono diverse da paese a paese. Probabilmente un fondo comune avrebbe agito in modo indiscriminato senza una necessità ben precisa, quindi l'intervento stato per stato probabilmente ha un'efficacia in questo momento forse più forte, chiaramente crea un messaggio politico più debole, ma da un punto di vista di velocità ma anche di prontezza di questa decisione, l'abbiamo visto in Inghilterra, l'abbiamo visto in Spagna, l'abbiamo visto in Francia, in Belgio, hanno dato dei segnali secondo me più incoraggianti. Senta, le posso chiedere che cosa immagina che potrà fare per quello che riguarda il sistema bancario italiano il governo questa sera? Ma io credo che sono tanti i meccanismi che possono essere discussi, tra l'altro si tratta anche quello di rivedere talvolta alcuni meccanismi per quanto riguarda la contabilità delle banche, possono essere rivisti alcuni meccanismi proprio anche di trasparenza per quanto riguarda il mercato di borsa. Credo che esistono innumerevoli possibilità di discutere dei provvedimenti per dare maggiore trasparenza al mercato e in questo caso fiducia, perché questa è la cosa più importante. Grazie a Mario Sprafico, direttore investimenti grazie di City Italia. Buona giornata, almeno lo speriamo. Un'occhiata intanto a Piazza Affari. C'è un titolo positivo, se può servire a rasserenare un po' i nostri ascoltatori, è proprio il titolo di una banca. Il Banco Popolare sta guadagnando il 2,74%, abbiamo una situazione invariata per i talcementi e poi cominciano i segni meno, e i titoli che perdono meno in questo momento: Buzzi Unicem -1,33%, in meccanica meno 1,34, Mediolanum perde 2 punti, Snam Rete Gas meno 2,5 punti, Terna meno 2,5, Autostrade meno 2,70. Invece il calo è ancora molto forte, Impregilo non riesce a ritornare in contrattazioni, meno 13%, Fastweb meno 9,72, L'Espresso meno 9,51, Unipol meno 8,80, sta leggermente migliorando la situazione anche su Unicredito, anche se il calo è attestato all'8,47%. Lascerei da parte a questo punto questi numeri perché ci stanno scuotendo e non poco. Andrea, le altre problematiche, le altre preoccupazioni che stanno attanagliando adesso le famiglie italiane, e la prima domanda che molti si fanno in questo momento in cui non facciamo che parlare di crisi di banca, di crisi bancaria, insomma, i miei fondi, i miei conti, il mio conto corrente, il mio deposito è al sicuro? Immagino che queste siano un po' le telefonate, questo sia l'ordine delle preoccupazioni in cima alla lista delle telefonate che arrivano ad Altro Consumo. Anna Vizzari, buongiorno. Buongiorno, sì, sicuramente nell'ultima settimana le richieste sono proprio di questo tipo, quindi sapere se i soldi che si sono lasciati sul conto corrente o si sono investiti in conti di deposito sono al sicuro. Ovviamente è da confermare che sia i conti correnti, anche quelli online, che i conti di deposito rientrano nel caso in cui la banca arrivi a uno stato di insolvenza. Ricordiamo che l'ultima possibilità ci potrebbe essere l'intervento della Banca d'Italia, dello Stato, o magari anche l'acquisto da parte di un altro istituto. Comunque se si arrivasse a uno stato di insolvenza, comunque si tratta di strumenti che sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino al limite massimo di 103.291 euro. E insomma, questo è un punto molto importante, perché diciamo che abbiamo scoperto amaramente da poco dell'esistenza di questo fondo. Questo aspetto comunque ci ha rassicurato non poco, perché in una situazione molto mista, molto sparpagliata fra i paesi europei, in cui in realtà questo livello di garanzie era minimo, era praticamente nello standard, a livello minimo dello standard, certo, di garanzia chiesto dalla direttiva europea, che sì, poi citeremo, insomma, questo almeno per una volta tanto ci ha posto l'Italia in una situazione prima, diciamo. Esatto. Spiegheremo come funziona questo fondo, sperando di non dover mai attingere, naturalmente, quali sono le tutele anche dei nostri risparmi. Però intanto ci sono risparmi che sono andati in fumo qualche settimana fa, perché molte famiglie italiane hanno scoperto, loro malgrado, di aver investito in obbligazioni Lehman Brothers o in polizze vita, in prodotti di risparmio legati a questa banca d'affari americana fallita. Ecco la nostra scheda. Una crisi così non si ricordava da tempo. Le violente turbolenze delle borse in questi ultimi giorni hanno però messo in secondo piano i problemi emersi dopo il dissesto a catena delle maggiori banche d'affari americane. L'ultimo caso, quello del colosso del credito Lehman Brothers, ha coinvolto almeno 100.000 risparmiatori, ma una stima precisa ancora non si può fare tra i possessori di obbligazioni della banca statunitense e tutti quelli che, indirettamente, si sono trovati in mano più o meno consapevolmente dei prodotti a rischio. I prodotti finanziari emessi da Lehman Brothers, infatti, sono stati venduti a investitori retail attraverso la rete delle banche commerciali europee. Sono stati ristrutturati come prodotti di risparmio tradizionale o assicurativi e sono stati rivenduti ai clienti. Dopo il fallimento della banca, le associazioni dei consumatori e altri organismi si stanno ora muovendo affinché la patata bollente non resti in mano ai piccoli risparmiatori. E alcuni operatori, come Unipol, Mediolanum e BCC Vita, si sono già detti disponibili, con modalità ancora da stabilire, a rimborsi sulle polizze. Ma la valutazione degli effetti che il ciclone Lehman potrebbe causare dipenderà dalla solidità patrimoniale e dall'esposizione dei singoli operatori. Ieri l'amministratore delegato della Lehman Brothers, Richard Fuld, davanti al Congresso americano, si è assunto ogni responsabilità per le decisioni prese. E speriamo che questo corrisponda alla volontà di risarcire chi, di quelle decisioni, ha dovuto pagare le conseguenze. Buongiorno e grazie di essere con noi a Rosario Marcone, analista di De Minor Italia. Benvenuto e grazie di essere a Salva Danaio. Grazie a voi per ospitarmi nella vostra trasmissione. Allora, ci sono già molte domande per lei, glielo preannuncio, però prima di tutto dobbiamo spiegare naturalmente che cos'è De Minor, cosa sta facendo, come si sta muovendo per tutelare gli interessi di chi, suo malgrado, è incappato in un investimento Lehman Brothers. 800240024. Allora, cominciamo intanto con il spiegare chi siete, come mai avete costituito questo comitato creditori europei di Lehman Brothers, dottor Marcone. Sì, allora, De Minor è una società di indipendenza che opera a livello europeo, che è rappresentata qui in Italia da De Minor Italia, appunto, che è il nostro ufficio. È una società che non nasce ora, è una società, insomma, che ha esperienza alle spalle, che proprio qui in Italia insieme ad Altro Consumo sta tra l'altro lavorando sul caso Parma. Sì, volevo tra l'altro dire che vi ho casualmente messo insieme questa mattina, poi ho ricordato che avevate già lavorato insieme per il caso Parmalat, quindi tanto per precisarlo ai nostri ascoltatori. Sì. Sì, allora dicevo quindi che non siamo nuovi insomma a queste esperienze vissute in questi giorni ai risparmiatori italiani ed europei in generale. Noi relativamente al caso Lehman posso dire che tale caso è stato lanciato soltanto 4 giorni fa a livello europeo, in Italia invece l'abbiamo lanciato 3 giorni fa e in questi seppur pochi giorni comunque abbiamo avuto oltre 600 casi in cui effettivamente abbiamo riscontrato una cosa comune in ciascuno di questi casi, cioè da un lato diciamo queste persone che hanno acquistato questi strumenti finanziari Lehman Brothers non sono stati effettivamente informati della reale esposizione al rischio a cui andavano appunto incontro acquistando questi strumenti finanziari. Faccio un inciso a tale proposito, in molti di questi casi appunto abbiamo riscontrato che questi prodotti sono stati pubblicizzati come prodotti senza rischio, quindi sono stati paragonati addirittura a obbligazioni dello Stato, a BTP e BOT per capirci. Secondo punto comune a tutte queste persone che sono state vendute questi strumenti finanziari, abbiamo riscontrato che nei loro portafogli è elevata l'incidenza appunto di questi prodotti relativamente alla loro effettiva avversione al rischio. E cioè mi spiego, cioè anche nel caso di investitori ultra avversi al rischio noi abbiamo riscontrato percentuali di questi prodotti acquistati che vanno dal 30 al 40% e in alcuni casi anche ben oltre il 50%. Ciò significa che la banca volutamente, banca o assicurazione, volutamente ha voluto piazzare questi prodotti nonostante appunto il cliente era un cliente molto avverso al rischio. Ciò significa un cliente che quanto al massimo puntava a recuperare quantomeno l'inflazione e quindi al massimo puntava ad acquistare obbligazioni e bot. Ecco, dottor Marconi, immagino che poi la responsabilità della banca nell'aver, tra virgolette, uso questo termine, è stato usato tante volte in passato, non mi piace affatto, però non trovo adesso un sinonimo, la responsabilità della banca di aver scaricato anche questi prodotti tra gli investitori dovrà essere, immagino, dimostrata caso per caso, però il primo punto sarà anche quello di vedere come Lehman Brothers verrà liquidata, perché adesso è sotto Chapter 11 e quindi da lì capire anche con che modalità gli investitori italiani potranno essere anche attraverso questa via risarciti. Dopodiché ci sarà anche il discorso di vedere come sono entrati, come dire, nell'ambito di questo investimento. Le faccio sentire alcune domande di alcuni ascoltatori, poi da questi ripartiremo nella seconda parte di Salva Danaio. Luigi da Milano, buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Luigi, che telefono ha? Sentiamo disturbatissimo. Senta, la faccio richiamare perché siamo in difficoltà. Sento intanto Claudio da Treviso. Claudio, benvenuto. Buongiorno. Rapidissimo, la prego. Sì, l'anno scorso ho avuto un'eredità tutta in obbligazioni della cassa di credito cooperativo delle Prealpi. Sì. Volevo chiedere, siccome sono circa 100.000 euro, mi conviene tenere queste obbligazioni o monetizzare? Ah vabbè Claudio, allora qui siamo, io pensavo che fosse una cosa legata a Lehman Brothers, mi scusi. Noi ovviamente non le possiamo dare un suggerimento rispetto alle sue esigenze di investitore, di risparmiatore e quant'altro. Le possiamo dire magari se essendo legate al credito cooperativo queste obbligazioni in caso di problemi della banca ha problemi o meno. Anna Vizzari. Diciamo che rispetto alle altre obbligazioni bancarie, le obbligazioni delle banche di credito cooperativo godono di una tutela in caso di insolvenza della banca rappresentato dal fondo per gli obbligazionisti, cioè le banche di credito cooperativo partecipano a questo fondo che tutela le obbligazioni bancarie fino a un massimo di 103.291 euro come i conti correnti. Questa stessa tutela non c'è invece per le altre banche. A Salva Danaio siamo ritornati, naturalmente lo stiamo facendo da tutta la settimana, lo continueremo ancora a fare, a parlare delle conseguenze della crisi finanziaria in corso. Stiamo parlando delle preoccupazioni delle famiglie italiane a proposito dei propri risparmi, dei propri conti di deposito, dei propri conti correnti, ma siamo ritornati anche a fare il punto su quegli investimenti in titoli Lehman Brothers che hanno coinvolto molte famiglie italiane. Perché ne parliamo? Perché si è costituito da pochissimo un comitato creditori europei con l'obiettivo di ottenere il risarcimento dei danni dei creditori in Europa, negli Stati Uniti e quindi anche gli italiani. Molte famiglie coinvolte, sentiamo il caso di Giorgio da Varese, poi ne sento un altro paio e risponderemo con il rappresentante di Neminor in Italia, Rosario Marcone. Allora, Giorgio. Pronto, buongiorno. Velocissimo, una, se riesco, una seconda domanda. In una gestione patrimoniale diretta tutta dalla banca, la banca ha inserito obbligazioni Lehman. Ovviamente queste determineranno una perdita. La perdita tutta a carico del cliente o potrebbe essere attribuita in parte o in toto alla banca? Giorgio, la ringrazio. Io non riesco a farle fare la seconda domanda perché ho una marea di telefonate. Mi perdoni, ma comunque prendiamo questo punto. Gianfranco da Roma. Buongiorno. Senta, la domanda è breve. Mia moglie ha fatto delle polizze con la Unipol. Sì. Pensavamo che erano delle semplici polizze sulla vita. Poi ci siamo venuti a scoprire una settimana fa, è arrivata una lettera in cui diceva che a causa della Lehman Brothers, che era in stato fallimentare, il nostro investimento potrebbe essere decurtato del circa il 30%. Sì. Volevo sapere come ci dovevamo comportare, anche perché queste assicurazioni comportano un paniere. Su questo paniere ci sono varie azioni di varie società che stanno all'estero. Gianfranco, sì, la ringrazio. Adesso cercheremo di darle anche qualche indicazione su come deve comportarsi lei. Tenga conto che Deminor sta muovendo i suoi primi passi adesso e sicuramente è pronta anche a sentire tutti i singoli casi e poi magari individuare se è possibile un'azione comune. Ma in ogni caso poi dipende anche che è stato l'intermediario che ha venduto il prodotto di investimento. Vedo che anche Anna Vissari vorrebbe intervenire, freme. Sento l'ultimo caso, quello di Luca da Milano, e poi do la parola a Marcone e anche ad Anna. Luca. Sì, buongiorno, breve. Niente, mi hanno venduto anche a me questa polizza vita, la Deutsche Bank me l'ha venduta, le cedole erano garantite dal gruppo Zurich, ma il capitale che doveva essere garantito dalla Lehman Brothers a quanto pare non è più stato garantito. Volevo sapere come muovermi, se è possibile con altro consumo, con qualche associazione. grazie Luca. Beh, intanto Rosario, Marcone, sicuramente tutte queste persone possono associarsi all'iniziativa di Deminor, no? Beh, sicuramente sì, sono due casi appunto che rientrano nella nostra azione. Il primo caso è il caso del signore che ha acquistato obbligazioni, sì, che ha obbligazioni nella sua gestione, insomma, patrimoniale. Sì. Poi ci abbiamo due casi di polizze vite. Oltre a questi due casi, noi accettiamo anche clienti che hanno acquistato prodotti strutturati, tra cui index linked e unit linked. Quindi diciamo i tre casi che sono stati appena proposti al telefono sono tre casi che rientrano nella nostra azione. Ecco, come vi muoverete adesso, Marcone? Quali Perfetto. Sono i vostri passi? Sì. Beh, diciamo che noi innanzitutto intendiamo ottenere il risarcimento dei danni subiti da queste persone che hanno acquistato questi prodotti, e cercheremo di ottenere questo risultato in due modi. Il primo modo è appunto rappresentare questi risparmiatori a livello europeo e quindi anche in Italia, nell'ambito delle procedure di insolvenza che sono ora in corso sia in Olanda che a New York. In Olanda Lehman Brothers Treasury e a New York Lehman Brothers Holdings, e quindi noi cercheremo appunto di rappresentare questi creditori. Perché? Perché loro, avendo acquistato questi prodotti, appunto come dicevo, sono creditori e come tali avrebbero diritto a ottenere una parte di risarcimento dei danni subiti per via appunto della situazione di Lehman. Parlo al condizionale perché appunto, come tutti sanno, alla fine quando ci sono queste procedure in corso bisogna innanzitutto vedere l'ammontare dei soldi che riescono a recuperare dalla vendita degli assi, certo. Dalla liquidazione degli assi. Dopodiché bisogna fare una distinzione tra i vari creditori della Lehman, cioè ci sono alcuni che hanno emesso prestiti alla Lehman Brothers garantiti, ed altri invece non garantiti. Diciamo che finora la nostra esperienza ci porta a dire che la Lehman ha emesso ad oggi soltanto obbligazioni non garantite. Questo significa che nel caso appunto delle tre telefonate ricevute prima, io credo che tutte e tre le telefonate rientrino in questo caso. Ciò significa, e concludo su questo punto, cioè il fatto che appunto è difficile che queste persone alla fine riescano ad ottenere un risarcimento, per quanto è possibilissimo. Questo perché io non voglio comunque creare false aspettative, diciamo, nei, certo, nei telespettatori, noi nei radiospettatori. È lo stesso. Mi scusi. No, non ci mancherebbe. Quindi, ecco, non si vogliono creare false aspettative, però queste persone in qualche maniera, ovviamente, siccome ritengono di non essere state informate correttamente del proprio grado, del rischio del proprio investimento, è chiaro che in qualche maniera una tutela la cercano, a prescindere dal risultato che possa ottenere Deminor. Qui è il punto centrale, perché so che voi, al di là del risarcimento che potrà essere ottenuto in base alla liquidazione di Lehman Brothers, so che voi poi vorrete anche agire contro gli intermediari, se non sbaglio. Certo, noi, come giustamente lei diceva, innanzitutto cercheremo di farci sentire in queste procedure, cercheremo di ottenere il massimo possibile che è possibile ottenere da queste procedure di liquidazione. In secondo luogo, noi dobbiamo effettivamente valutare caso per caso e vedere effettivamente se c'è stata la mancanza da parte del funzionario della banca X o dell'assicurazione Y nel vendere il prodotto oppure nel piazzarlo nella gestione patrimoniale, diciamo, di un signore. Quindi bisogna vedere effettivamente fino a che punto queste persone sono state consapevole di quello che loro stavano acquistando, da un lato, e dall'altro lato fino a quanto loro hanno avuto da questi, fino a che percentuale di questi prodotti sono stati piazzati nel loro portafoglio. Quindi diciamo che il primo passo fondamentale, poi la saluto Marcone, è quello di fare un esatto censimento intanto di quello che c'è in circolazione, di che prodotti hanno in portafoglio gli investitori italiani incappati in Lehman Brothers, come sono stati comprati questi prodotti, con che livello anche di consulenza. Dopodiché si agisce? Sì, dopodiché se nel momento in cui noi riusciremo a capire che effettivamente l'intermediario è venuto a mancare alla sua competenza e quindi ha diciamo trasgredito le regole ora MiFID che sono da poco state adottate, comunque anche prima delle regole MiFID c'erano le regole da rispettare, certo, per quanto riguarda ovvio la vendita di questi prodotti, certamente. Bene, nel momento in cui noi riscontriamo che appunto ci sono state queste discrepanze con le regole, noi cercheremo di agire in ogni modo per poter ottenere il risarcimento dei danni. Grazie Rosario Marcone. www.deminor.com per poter andare anche a monitorare l'attività di questa associazione, e ovviamente muove i suoi passi da pochi giorni, ma noi continueremo ovviamente anche a informarvi costantemente sui risultati progressivi, probabilmente procrastinati nel tempo, a lungo ottenuti. Anna Vizzari, finalmente eccoci a noi. No, adesso magari ritorniamo sulle tutele, sì, dei nostri depositi, dei nostri conti correnti in questa fase di crisi molto seria. Volevo chiederle un commento sui casi Lehman Brothers, sì, che abbiamo sentito, perché il caso Unipol mi sollecitava, esatto, un po'. Esatto, sì, perché vabbè, nel caso del raccontato da radioascoltatore, a mio avviso si ravvisano due cose importanti. Innanzitutto il fatto che pensava di aver sottoscritto una polizza vita tradizionale, invece una polizza index linked, quindi si tratta di una situazione in cui l'intermediario assicurativo non ha ben spiegato che tipo di prodotto era. Ricordiamo che esiste una circolare dell'ISVAP che è del 2005, che obbligherebbe gli intermediari a dare delle informazioni complete, per cui ci potrebbe essere la possibilità di fare un reclamo anche all'autorità del mercato assicurativo, l'ISVAP, per mettere in evidenza questo aspetto. E guardate che l'ISVAP sanziona. Sì, esatto, ecco, è un'autorità molto attiva, per cui potrebbe essere interessante. E poi secondariamente è interessante anche sottolineare il fatto che il radioascoltatore ha ricevuto una lettera dall'Unipol una settimana fa, in cui si diceva potrebbe avere una riduzione del capitale assicurato del 30%, nello quando stesso invece tempo c'era un comunicato stampa in cui si diceva il contrario, per cui insomma il contrario, in sostanza Unipol dice sì, man mano che le polizze arrivano in scadenza, se sono indicizzate a Lehman Brothers, dovrei, noi siamo disponibili a valutare, esatto, un risarcimento. Però appunto integrale. Si trattava di una polizza indicizzata a Lehman Brothers, quindi si tratta insomma del caso pubblicizzato, esattamente, ecco, quindi insomma siamo in una contraddizione. Gianfranco da Roma, alzi la voce, si faccia senz'altro sentire. 800 24 00 24. Allora, prima dei suggerimenti perché in viaggio, siccome Gian Battista da Cremona lo stiamo rimbalzando dall'inizio della trasmissione, me ne scuso. Gian Battista, buongiorno. Sì, buongiorno Teresa, complimenti per la trasmissione. Grazie. Ed è una cosa, una domanda semplicissima: il fondo di garanzia per i conti correnti ordinari, sì, di una banca, no? In Italia è 103.000 euro, salvo diciamo stasera. Dipende dal governo. Non credo che stasera intervengano là, però insomma non si può mai sapere. In ogni caso atteniamoci a quello che abbiamo, sì, 103.000 okay, euro. Allora, 103 conto corrente italiano da italiano. Io sono correntista di una banca, di un gruppo francese, di banca. Ecco, il fondo risponde, il fondo qualora sigla a livello europeo, Io che sono Giambattista, ci dica il nome, tanto non è un problema, voglio dire. Ce ne sono un paio grandi che operano in Italia, quindi possiamo immaginare. Ne metta uno dei due, dai. Uno dei due, va bene. Uno dei due. Allora, noi andiamo con la risposta a quello che sappiamo. Quindi se fossero BNP Paribas o Crédit Agricole, Anna Vizzari. Allora, diciamo che il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Italiano tutela le banche italiane consorziate, però le banche comunitarie possono aderire al nostro fondo per integrare la tutela del loro fondo nazionale. Nel caso specifico, sia BNP Paribas che Crédit Agricole aderiscono al fondo francese, che ha una tutela di circa 60.000 euro, se non ricordo male, per depositante, però sia BNL che Cariparma aderiscono come consorziate al nostro fondo, quindi vale la tutela del nostro fondo di garanzia. Giambattista, è soddisfatto? Cariparma quindi aderisce al fondo italiano. Al fondo italiano. Cosa? Sì. No, è generale, dato che qualche giorno fa. I conti correnti di correntista, però il correntista come testa o il correntista come insieme di depositi in varie banche? Come depositante, quindi 103.000 euro per depositante. Eccoci a Salva Danaio. Allora, insomma, abbiamo ribadito le tutele per i correntisti italiani presso banche straniere che operano però in Italia secondo tutti i crismi italiani. Sì, Anna, sì, certo. Ci sono anche delle filiali di banche estere che operano in Italia, delle succursali che non hanno aderito effettivamente al nostro fondo nazionale di garanzia, e quindi a questo punto il nostro fondo non interverrebbe in caso di loro insolvenza. Ci sarebbe per esempio la Barclays non aderisce al nostro fondo, quindi ha soltanto la tutela del fondo inglese, britannico. Enzo da Pescara, lei invece mi pare un cliente di Deutsche Bank, dovrebbe essere Deutsche sereno. Bank, sì. Enzo. Quindi, sì, buongiorno. Buongiorno. No, volevo chiedere, appunto, questo fondo garanzia di 103.000 riguarda anche la banca straniera, comunitaria, dove io sono correntista del cliente della Deutsche Bank. Sì, Enzo, sì, dobbiamo... Deutsche Bank, sì, aderisce al fondo di garanzia. Comunque l'elenco delle consorziate è sul sito del fondo, intermediario, è www.fidt.it. Tra l'altro noi abbiamo anche cercato di avere da noi il segretario generale del fondo, ma a quanto pare non è possibile parlarci in diretta in questo momento, e comunque mi rendo conto che è una fase un po' delicata per tutti. Non interviene mai pubblicamente, diciamo che questo è un fondo che abbiamo drammaticamente scoperto in questo momento, ma speriamo, insomma, di dovervi solamente spiegare come teoricamente funziona, ma non doverlo mai scoprire nella pratica. Fabio da Pescara, benvenuto. Benvenuto, grazie, buongiorno. Senti, per quanto riguarda i conti correnti o i libretti di deposito a risparmio, no, nominativi, sì. Per chi ha una giacenza superiore ai 103.000 euro che vengono garantiti dal governo, come si deve comportare? Vengono garantiti dal fondo interbancario, non è un fondo garantito dal governo, Fabio, sì. Sì, stiamo parlando ovviamente di libretti bancari nominativi, quindi rientrano nella tutela del fondo interbancario di tutela dei depositi, fino a quel limite di 103.291 euro per depositante. A questo punto, proprio pensando alla situazione peggiore che possa accadere, forse è meglio togliere l'eccedenza cifra superiore ai 103.000. Per la verità, qualche collega qualche giorno fa ci aveva dato un ulteriore suggerimento. Siccome in una ipotetica liquidazione il fondo garantisce nell'immediato, diciamo nei tre mesi successivi al default, la restituzione e il risarcimento di una tranche di 20.000 euro, poi gli altri ovviamente vanno via, cioè vengono restituiti man mano che avviene la liquidazione, addirittura si era suggerita un'ipotesi di questo tipo. Insomma, se avete proprio paura, spezzettate al massimo i vostri risparmi su più banche, però. Sicuramente la diversificazione fa sempre bene, ma sempre, non soltanto in una situazione di crisi. Infatti. Umberto da Isernia, e qua andiamo all'altro grande caso, oggetto di grande preoccupazione, perché insomma questi signori di ING Direct sono venuti in Italia proprio per promuovere e lanciare il conto di deposito, adesso scopriamo invece che i nostri depositi. Umberto da Isernia, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Volevo chiederle, siccome a proposito del conto arancio, sapendo che non è una banca italiana, rientra in questa clausola di salvaguardia, sì, come le altre che poco fa hanno annunciato, fino a 103.000 euro? Sì, perché ING Direct Italia aderisce al nostro fondo nazionale di garanzia. Tra l'altro volevo anche dire un'altra cosa, perché insomma qua abbiamo tante preoccupazioni. Abbiamo notato che ieri, per esempio, proprio ING Direct ha lanciato questo aumento della remunerazione sui conti di deposito. Beh, segno che lo possono fare, Anna, non è una manovra? Mi auguro di sì, probabilmente anche loro hanno sentore di questa, un po' po' sfiducia dei clienti, è un modo per attirarli, tenerli stretti, però comunque devo dire che non è che si tratti di una banca più rischiosa delle altre, appunto perché momento, la tutela insomma, è uguale a quella delle altre. Allora, visto che abbiamo ancora un po' di minuti di tempo per fare l'ABC, i titoli di Stato non hanno nulla a che fare con il fondo interbancario di tutela dei depositi, quindi quello titolo di Stato è un investimento. Sì, certo, è una, appunto, uno strumento di investimento, ovviamente viene a essere depositato presso l'intermediario in un deposito titoli, perché i titoli sono dematerializzati, quindi ovviamente c'è l'apertura di un deposito titoli. In caso di insolvenza della banca ovviamente si rimane proprietari del titolo, magari si dovrà aspettare un po' di tempo per poter poi ritornare veramente, diciamo, nella disponibilità del titolo. 800240024 se volete avete ancora un paio di minuti di tempo per intervenire. Abbiamo anche, tra le altre eccezioni che abbiamo spiegato nei giorni scorsi, la questione di BancoPosta che non aderisce al fondo. Sì, ricordiamo che appunto BancoPosta è il prodotto diciamo così tra virgolette bancario delle Poste Italiane. Le Poste Italiane non aderiscono al fondo interbancario di tutela dei depositi perché non sono una banca. Di conseguenza appunto non è prevista la loro adesione, però diciamo che le Poste Italiane sono un ente di proprietà pubblica, quindi sono diciamo molto tutelate da questo punto di vista, è difficile che lo Stato fallisca. C'è dietro la Cassa Depositi e Prestiti, per cui insomma si spera che tutto vada bene. Mi veniva in mente una cosa a proposito dell'ascoltatore che ha chiamato prima e che ci spiegava che sul suo conto di deposito ha un ammontare superiore ai 103.000 euro, potrebbe eventualmente per raddoppiare le garanzie e cointestare il conto, Anna. Esatto, ricordiamo che la tutela del fondo, questo limite vale per depositante, per cui se il conto è cointestato, quindi c'è un doppio intestatario del conto, il limite si raddoppia, se ci fossero tre intestatari si triplicherebbe, per cui bisogna tenerne anche conto, potrebbe essere una modalità. Stavo guardando tra l'altro che stanno arrivando anche molte richieste di chiarimenti a proposito di obbligazioni legate a banche straniere, anche questo è un tema che abbiamo affrontato più spesso. Molte vostre colleghe, associazioni dei consumatori stanno suggerendo di fare un check-up molto dettagliato al proprio portafoglio e di scrivere direttamente alla banca per farsi spiegare esattamente qual è il grado di rischio del proprio investimento. Vi state muovendo anche voi, Anna, in questa direzione? Sì, sicuramente. Bisogna dire che le banche nell'ultimo periodo hanno proposto moltissimo le obbligazioni bancarie, non soltanto emesse da loro ma anche quelle di altri istituti, forse appunto molto spesso non mettendo ben sul tavolo qual è comunque il livello di rischio di queste obbligazioni. Sono sicuramente obbligazioni a basso rischio, sicuramente lo erano al momento in cui sono state sottoscritte, però comunque non sono paragonabili ai titoli di Stato, hanno un rischio legato all'emittente, infatti la situazione attuale lo dimostra, se sono estere potrebbe anche esserci un rischio legato al tasso di cambio. Per cui insomma bisogna valutare bene la situazione, se c'è stata una sottoscrizione senza aver valutato queste, diciamo così, elementi di rischiosità, sicuramente ci sono i presupposti per poter far valere i propri diritti. Grazie ad Anna Vizzari, Ufficio Studi Giuridici ed Economici di Altro Consumo. Grazie. Noi ritorniamo domani sugli effetti della crisi e parliamo di mutui. Buona giornata.